Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavo aspettando. Abbiamo Paolo Corleone in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Oggi parliamo di cibo. Ne parliamo spesso a Essere Benessere perché come ci nutriamo e cosa beviamo sono realmente una parte importante di ciò che siamo e anche di ciò che diventeremo. Ci nutriamo non solo per sopravvivere, ma direi proprio per vivere nel senso più pieno della parola. Ma oggi, a differenza di altre occasioni, l'attenzione si concentra su cosa mangiamo. Oggi le parole chiave saranno diverse: come mangiamo, perché mangiamo in un certo modo invece che in un altro, quando e dove. Trovare risposte a queste domande significa, se ci pensate bene, disegnare un po' il profilo del rapporto che ciascuno di noi intesse nella sua vita con il cibo. Insomma, oggi, cari amici, l'aspetto del cibo che ci intriga di più non è quello nutrizionale, ma emozionale e relazionale. Se ci state, 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, come sempre a vostra disposizione. I messaggi al 349 238 6666. Ma dato che le domande sono tante, proviamo a raccontarci un po', stimolati dal nostro autotest che ci fornisce alcuni indizi per capire come noi ci poniamo di fronte al cibo e soprattutto come il cibo risponde ai nostri bisogni che vanno al di là di quelli nutrizionali. Quindi segnatevi le risposte e state pronti a chiamarci al nostro numero verde. Per te la pausa pranzo è A. un piacere che interrompe la fatica di una giornata. B. un dovere da assolvere nel più veloce dei modi. Quando consumi un pasto a casa, A. mangio con calma, godendomi la compagnia di familiari o amici. B. mangio velocemente e spesso davanti alla TV. Nel tuo frigorifero, A. ogni cibo ha il suo posto ed è conservato con ordine. B. tutto quello che c'è, quando c'è, è posto alla rinfusa. Un alimento deve essere A. buono e nutriente. B. sano e sicuro. Alla fine di una buona cena, il primo pensiero è A. l'ago della bilancia. B. la soddisfazione. Bene, intanto che voi vi mettete in contatto con il nostro numero verde, voglio subito salutare l'ospite che è in studio con me, la dottoressa Giovanna Luini, medico e scrittore, scrittrice. Buongiorno e bentornata. Ciao, anzi. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, Giovanna, tu hai pubblicato un libro che mi è piaciuto molto, Il diario di Melassa, edizione storica, ed è un romanzo in cui la storia di vita di una giovane donna si intreccia con una relazione con il cibo molto particolare, che direi lo rende proprio un vero e proprio protagonista sulla scena del suo percorso di crescita. Ne parleremo nel corso della trasmissione, ma prima ascoltiamone un breve estratto. Non so come iniziasse. Ricordo soltanto che arrivavo in cucina e aprivo le ante di un pensile cercando le brioche. Ne prendevo due o tre e mi riempivo le mani di biscotti, poi passavo al frigo e lo vuotavo di burro e formaggio e prosciutto. Qualche panino. Poi andavo a nascondermi. Mangiavo in fretta, con il senso del proibito chiuso in gola, insieme a quella massa indistinta di sapori e ribrezzo, di piacere voluttuoso che precipitava troppo in fretta nelle mie viscere perché potessi riconoscerlo e fermarlo. Le crisi, ora le chiamo così, non a quei tempi, duravano mezz'ora, un'ora, un pomeriggio intero. Non le conoscevo, almeno non nei primi anni. I saccheggi più precoci avevano un senso di rivalsa nei confronti di mio padre, che continuava a negarmi ciò che agli altri bambini era concesso e di autogratificazione, come le coccole più dolci che non sapevo trovare. Giovanna, il cibo entra nella nostra vita come un vero e proprio strumento di relazione carico di significati emotivi. In fondo è questo che succede anche alla protagonista del romanzo. Come potresti descrivere, anche definire, il rapporto che si instaura tra lei e il cibo? Proviamo a paragonarlo ad una storia d'amore. Sarebbe una storia, ma aspetta prima di raccontarcela, perché voglio far sentire la risposta e soprattutto salutare il professor Claudio Mencacci, che è in linea con noi, direttore del Dipartimento di Neuroscienza al Fatebene Fratelli di Milano, che ci accompagnerà per tutta la trasmissione fornendoci spiegazioni e strumenti che ci aiuteranno a capire se dietro alle nostre scelte, preferenze, abitudini alimentari c'è un rapporto equilibrato, pieno e soddisfacente, oppure la relazione cammina sul filo del rasoio, sospesa tra normalità e disordine. Professor Mencacci, bentornato, grazie per essere con noi. Bentornati e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Giovanna, cosa succede a Melassa con il cibo? Il cibo diventa davvero un amore, come dici tu, però un amore possessivo, tormentato e patologico. Quindi forse la parola amore non va bene a posteriori. Sicuramente è un sostituto affettivo. Discutibile o meno, diventa ciò che la protagonista del libro non ha o sente di non avere. Diventa il riempimento per un buco nero che nemmeno lei sa localizzare, ma che esiste. Diventa l'abbraccio, diventa qualcuno che la ascolta e diventa una coccola, come ho scritto. Diventa il gesto d'affetto e d'amore che, secondo lei, manca. Professor Mencacci, il rapporto con il cibo si è molto modificato negli ultimi decenni. Sono nate nuove passioni, nuove ossessioni, è cambiato, direi, proprio il modo di mangiare, sia a livello di composizione del menù, sia soprattutto a livello di modalità di assunzione. È proprio cambiato il come mangiamo, e questo ha generato e anche alimentato risvolti problematici. Gli addetti ai lavori parlano di disturbi del comportamento alimentare o disturbi degli appetiti. Professore. È proprio così. La rivoluzione che negli ultimi 20 anni stiamo assistendo è proprio questo. È sul primo luogo è sulla quantità di cibo. Troppo poco, anoressia, tantissimo, come nel pezzo descritto di una crisi bulimica. E di fronte a tutto questo un mondo che spesso si divide tra un mondo che ingrassa e quindi che diventa sempre più obeso, spesso anche affetto da altre patologie come il diabete, e invece un altro mondo che del cibo ne diventa un grave problema, e soprattutto perché non riesce più ad assumerne, come nel caso della diffusione sempre più ampia di anoressie nelle aree delle giovani adolescenti. Anche il cinema ha fatto da specchio della trasformazione delle nostre abitudini alimentari e quindi del nostro rapporto con il cibo. In linea con noi abbiamo il dottor Matteo Mugnani, psicologo, esperto in disturbi alimentari, autore tra l'altro di un lavoro molto interessante, un'analisi attenta della relazione con il cibo ricercata e spiegata attraverso i film. Buongiorno e benvenuto, dottor Mugnani. Buongiorno Nicolette e ai suoi ascoltatori. Dottore, quando il cinema inizia a rappresentare il rapporto con il cibo in modo nuovo, metto le virgolette, privilegiando le ossessioni, le manie e anche il valore simbolico del cibo al di là del suo valore nutritivo? Ma prevalentemente con gli anni 70, cioè in un'epoca di grandi cambiamenti culturali, con film come quelli di Pierpaolo Pasolini o Marco Ferreri, e di quest'ultimo in particolare con un film abbastanza noto che è La grande abbuffata, in cui, per ricordarlo brevemente, si narra la vicenda un po' surreale di quattro personaggi alienati dalla noia esistenziale che in pratica decidono di uccidersi attraverso il mangiare, cioè si chiudono in una casa nei sobborghi di Parigi e a forza di cucinare e mangiare, alla fine, a oltranza, muoiono effettivamente tutti e quattro. In questo film, che era una metafora del momento di grande alienazione culturale dell'uomo rispetto al consumismo moderno, rispetto alla caduta dei valori morali e della famiglia, all'epoca del divorzio, dell'aborto, eccetera, in pratica si descrive per la prima volta nel cinema un rapporto morboso con il cibo, cioè il mangiare, l'atto di mangiare, anziché essere fonte di vita, come lo è culturalmente, diventa metafora di morte. Quindi il cibo viene usato come una specie di droga simbolica che ubriaca, che anestetizza le emozioni e i pensieri, e come accade appunto nella bulimia di cui già stavate parlando in studio, il cibo funge da antidepressivo, da ansiolitico, cioè illude attraverso il colmare lo stomaco di poter colmare un vuoto esistenziale. Dottore, ma il disagio è stato anche letto in modo ironico? Io penso a Fantozzi davanti alla TV ingurgitare spaghetti in canotta. Sì, certo, naturalmente il personaggio di Fantozzi di Paolo Villaggio è uno tra i tanti che hanno rappresentato con ironia e cinismo un po' l'italiano medio, diciamo, in modo anche un po' grottesco, che si chiude, lei citava questa scena, no, di Fantozzi, che si chiude in un rapporto, diciamo così, autistico, tra virgolette, sì, tra... Non si accorge neanche della moglie. E sì, e non riesce più a comunicare con la moglie, anche quando lei gli confessa un tradimento, lui non ascolta nemmeno le parole perché è tutto preso dal cibo e dalla televisione. Ma sempre in quell'ambito, no, della, diciamo, dell'uso comico, del trattamento comico dell'argomento, c'è anche i film di Nanni Moretti, penso a Bianca, ma vale anche per altri titoli. Per esempio in Bianca c'è la famosa scena in cui Moretti di notte si alza, appena stato lasciato da una donna, si alza nudo dal letto in piena notte, come accade anche in questo caso in molti sintomi reali, e va a mangiare da un enorme, così iperbolico, barattolo di Nutella alto oltre un metro, che fa da ulteriore metafora proprio del rapporto con il cibo usato come compensazione affettiva, cioè come qualcosa in grado di placare un po' la solitudine dell'abbandono affettivo moderno. E proprio di Nanni Moretti abbiamo questo contributo tratto dal film Bianca. Il dolce, Matteo, taglia tu, tranquillo, con mano certa, professionale. Vai a prendere l'acqua che è finita? Sì. Lei non faccia il tunnel. Cosa? Lei mi sta scavando sotto e mi toglie la panna, la castagna, da sola sopra, non ha senso. Il Mont Blanc non è come un cannolo alla siciliana che c'è tutto dentro, è come uno zaino, lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro. Il Mont Blanc si regge su un equilibrio delicato, non è come la Sacher Torte. Cosa? La Sacher Torte. Cos'è? Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte. No. Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male. Dalla Sacher e soprattutto dalla Nutella compensatoria di Moretti, io passerei, dottor Mugnani, a quella filmografia che descriveva l'ossessione per la dieta e la magrezza importata dall'America. Dottor Mugnani. Sì, l'Italia è un po' un paese importatore di sintomi, quindi chiaramente quando arrivano modelli estetici e comportamentali nuovi li si incontra. Anche nel cinema, per esempio, c'è un film italiano abbastanza noto, che è 7 kg in 7 giorni di Compozzetto e Verdone, che prende un po' in giro l'ossessione per le diete, per i centri dimagranti, e in quel film si ironizzava proprio sui retroscena di un centro dimagrante dove era servita una ipotetica psicocena, veniva così chiamata, che era di fatto un buffet di piatti completamente vuoti dove i commensali dovevano immaginare i loro cibi preferiti senza però mangiare nulla, come accade un po' nella logica dell'ideale anoressico in cui il cibo di fatto è poi evitato. Ma questo vale anche in altri film, penso a Briciole tratto dal romanzo dell'Araki o altri ancora. Sentiamo un brevissimo contributo di 7 kg in 7 giorni. Adotto, io non entro più nell'ascensore. Nemmeno con le borse piene della spesa. Siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo, qui i casi sono due: o allargano l'ascensore o mi stringo io. Siccome questo è un condominio dei bidocchiosi, apposta mi sono decisa di venire qua, così loro sapio non si accoccia. Signora, io la faccio tornare una ragazzina. Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive. Ma è matta, dottore, non c'è bambino più amato di lui, viviamo per lui. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore, severo. Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ha dir poco il doppio di me? Guardate che pappagorgia che ha. Come ti permetti, Paolone? Paolone, non essere maleducato. Giovanna in studio ride perché, dottor Mugnani, dopo l'ossessione della quantità siamo passati anche all'ossessione per la qualità. Certo, che è un po'. Una nuova ossessione. Certo, il cinema di oggi che infatti rispecchia una ossessione nuova. Come per esempio nel film Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, che vinse anche l'Oscar per quel personaggio divertente, completamente intriso da ossessioni igieniche e da fobie alimentari, che è un personaggio che va al ristorante con le proprie posate di plastica, quelle usa e getta per intenderci, perché ha paura che siano contaminate o non siano pulite quelle del ristorante, quindi che non può accettare inviti a pranzo, inviti a cena a casa degli amici, e che si lava le mani 100 volte, che vuole essere sempre servito dalla stessa cameriera, nello stesso tavolo, nello stesso posto, quindi con tutta una serie di rituali ossessivi. Dietro che hanno un nome preciso, vero, dottor Mugnani? Sì, allora, diciamo, a livello clinico non è ancora riconosciuto, ma diciamo si comincia a parlarne come di ortoressia, cioè di ossessione per la qualità dei cibi, per i cibi cosiddetti sani, quindi non più l'anoressia soltanto della quantità, ma l'ortoressia anche della qualità. E sono fenomeni che denunciano una difficoltà proprio nel fidarsi degli altri, nel fidarsi in qualche modo, nell'aver bisogno di controllare la qualità di ciò che l'altro offre, quindi di controllare completamente in modo assoluto le relazioni sociali. Dottor Mugnani, io la ringrazio, ci ha fatto fare davvero un viaggio alla scoperta di come si è modificata proprio il nostro rapporto con il cibo, e soprattutto siamo riusciti grazie a lei a cogliere che il cinema ce l'ha riportato, no? E adesso noi dalle sale cinematografiche torniamo alla quotidianità. Dottor Mugnani, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, arrivederla. Giovanna, le donne spesso parlano di cibo, parliamo di donna a donna, come mai? Secondo te il cibo è diventato quasi un'ossessione per noi donne? Poi sentiamo il professor Mencacci. L'hanno fatto diventare un'ossessione perché noi siamo ormai costrette, sia per i messaggi estetici, che bisogna ammetterlo, sono un medico, per i messaggi di salute che spesso sono veri ma insomma forse un po' enfatizzati per quanto riguarda il peso, insomma ormai siamo costrette a misurarci tutti i giorni con delle immagini di donna che non ci corrispondono. Io credo di essere diventata una donna più o meno normale in termini fisici, però penso che un giorno scriverò un libro in cui racconterò tutti i commenti, tutto ciò che accade nella società, con gli amici, in famiglia, quando si prendono 2 o 3 chili. I commenti sono commenti a volte inconsci e ci arrivano. Noi siamo costantemente sotto esame. Per cui il cibo che ci piace, perché il cibo piace, è un piacere. Io sono d'accordo con Nanni Moretti, come si fa a vivere senza conoscere la Sacher Torte? Il cibo ci piace, non deve diventare un'ossessione, ma la fanno diventare, perché noi dobbiamo essere belle e magre. E il più delle volte questo non è possibile, non negli standard che ci vengono imposti. Professor Mencacci, sembra che il cibo sia un problema un po' prettamente femminile. Le donne ossessionate dalla linea, di questi modelli che ci vengono imposti, pronte a fare rinunce. Per gli uomini invece cosa succede? Ma direi che siamo ormai verso anche qui però la parità, perché anche per gli uomini sempre più, e lo dimostra la crescita smisurata di riviste dedicate alla linea maschile, alla sua forma, al suo mantenersi in un buon stile di vita, e sono la testimonianza che anche oggi l'idea, o meglio l'ideale, di una vitalità e soprattutto di una giovinezza e vitalità che non finisce mai colpisce sia uomini che donne. Direi che il punto centrale però è il rapporto che sta cambiando con i cibi, però assistiamo in questo momento a ricerca di cibi che devono essere però sempre più sani, cibi che devono essere sempre più la cui derivazione non debba essere modificata geneticamente o che contengano delle sostanze in qualche modo che non possono essere ben metabolizzate. Questa è un'altra importante trasformazione perché bisogna mettere insieme stili di vita sani, attività fisica, una sana alimentazione, e anche però con quel dato di fondo che è la provenienza dei cibi, ma soprattutto il piacere che ci debbono continuare a dare, e però questo è un piacere che oggi la scienza ci dice che deve essere un po' mitigato. Andiamo a Bergamo, c'è Grazia prima dei mercati. Grazia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo riagganciarmi alla dottoressa che ha parlato prima. Io sono una donna di 45 anni, lavoro, ho una figlia, una casa e sto seguendo una dieta, diciamo, ipocalorico, ho anche problemi di nickel, allora sto combinando anche i cibi perché non sapevo di questa componente del nickel. Insomma, sto attenta. Il problema è che una donna che lavora, che ha questi momenti di stress, giornate no, giornate sì, la sera il frigo è un alleato bellissimo, perché poi cerchi di essere molto rigorosa, però io trovo che la consolazione comunque vada data, perché altrimenti non si può vivere così. Insomma, il frigorifero alle braccia ci accoglie, Giovanna? Sì, ci accoglie. Per me per molti anni è stato così. Poi ho scoperto la scrittura e ho scoperto che posso essere accolta da altre passioni, però sono assolutamente d'accordo con Grazia. Allora, adesso quindi abbiamo raccolto diversi spunti, è tempo di metterci in gioco. Abbiamo, immagino, stuzzicato la vostra curiosità, ora vi invito a chiamarci per raccontare proprio il vostro quotidiano, quello dei vostri familiari, mamme alle prese con ragazzine ossessionate dal peso forma, oppure mariti che svaligiano il frigo proprio come bambini che rubano dal barattolo della marmellata, o ancora persone che prima di mangiare un cibo, come faceva riferimento il professor Mencacci, lo sottopongono quasi ai raggi X nel leggere tutte le informazioni nutrizionali, quasi si trattasse di un farmaco. Eccoci qua, siamo di nuovo insieme. saltare i pasti, mangiare in momenti insoliti, specie la notte, ingurgitare velocemente qualsiasi cibo presi da una smania per poi magari pentirsene, entrare in casa e aprire il frigorifero come prima cosa, ma ancora prima magari di togliersi le scarpe o togliersi il cappotto, ma anche evitare di mettere in dispensa alimenti per paura poi di saccheggiarle. Questi sono tanti modi diversi che noi abbiamo di relazionarci con il cibo, e di questo parliamo oggi. Quindi una relazione che a volte diventa pericolosa. Una volta può capitare che magari iniziamo una dieta e poi non ne sappiamo più uscire. Arrivano già tanti messaggi al 349-238-6666. Uno, ad esempio, Giovanni da Cuneo ci scrive: penso di mangiare molto male. Per me mangiare non vuol dire vivere, ma sopravvivere. Mangio di corsa, senza pensare. Cerco solo il cibo più semplice da preparare, senza valutare il piacere che ne ricavo. Può essere un problema psicologico, professor Mencacci? Sicuramente quello che traspare è che una condizione in cui il cibo non dà nessun piacere, non dà nessun sollievo, evidentemente deporta per una condizione quantomeno di un continuo stato di allerta e di controllo delle situazioni. Non c'è mai un momento nel quale uno si può lasciare andare. Andiamo a Firenze, c'è Maria Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Premetto che non ho seguito tutta la trasmissione, ho preso gli ultimi minuti, però ecco, diciamo, a me succede ancora, 53 anni, alcuni anni fa mi è morto il marito, no? Cioè, finché c'era questa, diciamo, questo matrimonio, no? Regolare, fatto anche proprio di sane abitudini, tornavo a casa con lo stress dal lavoro e io mangiavo mio marito, nel senso sì, che mi abbrancavo a lui, ecco. Io ho questo ricordo proprio bellissimo, in qualsiasi momento, in qualsiasi punto, lui era lì che magari tornava prima di me dal lavoro e io mi addormentavo così, arrivavo la mattina anche senza cena, stavo veramente bene, nel senso proprio anche come linea, tutto. Ora che non c'è lui e non riesco, diciamo, a trovare altre alternative, torno a casa e mi metto subito psicologicamente in questa cosa mentale, no? E sì, mangio. E basta, finché non mi rendo conto che non sono con mio marito, che sono lì a mangiare, che c'ho il frigorifero aperto. Maria Luisa, dopo qualche anno. Maria Luisa, lei ci racconta una storia di una fame d'amore, professor Mencacci. Direi proprio così, è un vuoto, è un lutto che non ha ancora trovato una sua andare oltre, ed è questo che continua a farsi sentire, proprio questa è una grande assenza. Giovanna, ho visto che quando hai sentito Maria Luisa eri... Insomma, mi commuove molto, perché va ovviamente a toccare quello che per me anche è stato il rapporto col cibo, che poi ho tradotto nel romanzo. Una grande assenza, nel mio caso è un'assenza che probabilmente è difficile da identificare, perché sono stata molto amata dai miei genitori e sono tuttora molto amata, però un'assenza c'era e il cibo andava lì, riempiva questo, quindi mi tocca molto la testimonianza e è molto... la trovo molto triste. Professor Mencacci, ci sono tanti spunti che vorrei sviluppare con lei. Abbiamo accennato agli eccessi di quantità, o troppo poco o troppo in eccesso. Perché oggi è così difficile per la gran parte di noi restare in equilibrio? Si deve sempre far fatica, oppure si schiaccia il piede sull'acceleratore? È come se avessimo perso un po' la misura, no? Ci sono anche persone che magari mangiano alla sera con amici e il mattino dopo saltano il pranzo, perché in qualche modo devono far quadrare i conti. Persone che non si piacciono mai, che iniziano una dieta e non riescono a smettere di stare a dieta. Diventa proprio una filosofia, non voglio usare questo termine, una trappola di vita. La trappola posta delle condizioni delle persone perennemente indietro in questa situazione di piccole concessioni e poi di ritorno indietro. Diremmo che abbiamo iniziato la danza dei gamberi, avanti e indietro, però contemporaneamente è quello che assistiamo e che c'è un prevalere fondamentalmente di molta impulsività. Perché sottolineo il tema dell'impulsività come essere posseduti da un momento con l'altro di grandi spinte da dentro che a volte non seguono un sentimento o non seguono anche un pensiero e ci spingono o a mangiare molto di più o addirittura farne esattamente il contrario. Io direi che il mancato equilibrio è proprio legato a questo incremento altissimo di fare azioni molto impulsive, mai costellate e aiutate da un continuum di equilibrio, ma anche di saper pensare a sé in termini positivi in maniera continuativa e non di alternare le visioni o totalmente negative o positive di sé, ma quindi che crearono questa continua alternanza, insomma. Professore, io vorrei oggi evidenziare magari alcune nostre abitudini che noi consideriamo come facenti parte del nostro quotidiano, del nostro stile alimentare, ma a un addetto ai lavori, a un osservatore attento, potrebbero suonare un po' come campanelli d'allarme. Quali sono, secondo lei, i segnali che noi non dobbiamo trascurare? Il segnale è proprio un eccessivo ricorso agli zuccheri e ai carboidrati. Questo perché da un lato generano molta dipendenza e soprattutto perché spingono le persone a contemporaneamente riempirsi per poi invece sentirsi svuotati e nuovamente ritornare a mangiare. Questa è una cosa che vediamo e purtroppo fa parte anche dell'educazione che stiamo dando ai nostri figli, ad esempio con molti tipi di merendine che gli danno una carica, la carica viene rapidamente consumata e poi si sentono stanchi e allora c'è la tendenza nuovamente a ricaricarsi con un'altra merendina o con tante bevande. Cioè abbiamo delle generazioni in questo momento che si stanno costruendo in una condizione tra la grande senso di attività e il crollo dell'attività. E questo ci crea dei problemi poi nell'idea di avere un'alimentazione più sana, ma soprattutto più equilibrata. Sandro ci chiama da Milano, buongiorno Sandro. Sì, buongiorno, ascoltavo la vostra trasmissione, mi sono un po', diciamo, rivisto nella situazione che ho passato io. Io ho sofferto comunque di queste mangiate notturne per 4 anni, praticamente mangiando normalmente, anche tanto di giorno, e poi alzandomi di notte con una fame nervosa addosso. Questa cosa è stata veramente delirante perché non mi faceva più lavorare, mi faceva comportare male in famiglia, ho accumulato un grosso peso e ho provato mille volte da solo a poterne uscire fuori e non ce l'ho fatta. E poi non so perché, dopo un po' di tempo mi sono informato che c'erano questi centri di disturbi dell'alimentazione. E si è fatto aiutare. Con il loro aiuto sono riuscito a venirne fuori, però ho dovuto fare prima una cura farmacologica per eliminare queste mangiate notturne, perché ormai vivevo male. Viveva perso autostima, non riuscivo più a lavorare, io secondo poi lavoro improprio e non potevo neanche permettermi comunque di abbandonare il lavoro. Quindi avvelenato, la sua vita veniva avvelenata da questo rapporto malsano con il cibo. Sandro, grazie per la testimonianza. Giovanna, vuoi dare un tuo commento prima delle strade? Riconosco la malattia, la stessa che ho avuto io, e credo sia importante dire che ci si deve fare aiutare. Da soli, se la situazione è patologica, non se ne esce. Io sono stata aiutata prima da uno psichiatra e poi tuttora da una analista. Credo che si debba riconoscere che è uno stato patologico, quello lì, quello descritto da Sandro. Non è sempre così, per fortuna gli stati patologici sono anormali, quindi rari, però quando esiste lo stato patologico bisogna chiedere aiuto. I familiari possono fare qualcosa o deve partire la richiesta d'aiuto dalla persona? I familiari possono fare limitatamente. Se la persona non vuole capire e farsi aiutare, è quasi inutile. Professor Mencacci, facciamoci aiutare quando la situazione ci scappa di mano, quando il frigorifero diventa una tana, ma anche quando ci rendiamo conto che il cibo diventa un nemico e iniziamo a ridurlo come una specie di sfida, no? Riusciamo a farne meno. Sottolineiamo i campanelli d'allarme, professor Mencacci, perché tanti messaggi ci arrivano da mamme preoccupate, di figli a dieta che mangiano una foglia di insalata. Che cosa devono fare i genitori di fronte a questo? I genitori devono in ogni caso supportare e segnalare prima di tutto al loro congiunto quello che sta accadendo e riuscire a portarli, come è stato detto benissimo sia dall'ascoltatore sia dalla dottoressa, quando questo segnale diventa patologico, quando il cibo diventa il perno nella quale tutto viene condensato, le relazioni, gli interessi, gli hobby, e quello diventa l'unico modo per riuscire a comunicare, tutto questo allora diventa non più un segno, ma diventa un sintomo che poi si accompagna nella perdita di peso, proprio anche a una perdita di interessi, di volontà di fare, e ovviamente a tutti quei segni fisici che sono importantissimi nell'anoressia, sia nelle giovani ragazze, ma anche dobbiamo dire che ci sono giovani uomini adesso che soffrono dell'anoressia, e nei casi descritti proprio questi invece delle sue crisi di binge eating, cioè proprio di spinta alla buffata, anche questo è la condizione dove il cibo diventa un segnale della patologia, di dove diventa l'unico interesse, dove le relazioni, dove gli affetti, dove i sentimenti sono concentrati su quel poco o su quel tanto. Giovanna? Le crisi di binge eating mi muovono i ricordi, ovviamente. Io quando avevo 27 anni pesavo 117 kg, cosa che probabilmente turba molto le persone che mi vedono adesso, e il mio peso evidentemente non è più quello, per fortuna. Non so, io tendo a non drammatizzare. Ho visto su Facebook, forse tu lo sai, molte risposte quando ho annunciato la tua trasmissione, che tra l'altro è amatissima. Ho visto molte risposte di persone che hanno portato testimonianze varie sul cibo, e la mia preoccupazione era di non drammatizzare, non far pensare che ci fosse del patologico, per esempio, nell'amore per il cibo o nella fame nervosa. Però è anche vero che le malattie esistono. Io ho vissuto per tanti anni con una malattia come quella e tuttora non mi sento completamente fuori. So che è una mia compagnia che gestisco bene. Ci sono sintomi e segni che vanno presi seriamente. Arrivare a 117 kg, come è capitato a me, non deve essere solo oggetto di scherno, di critica, oppure di frasi tipo sei una donna così intelligente e così brava, come mai non risolvi la situazione? È necessario riconoscere che alcune malattie esistono. Andiamo a Pavia, c'è Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno, volevo solo dare una mia esperienza. Io avevo una decina di chili in eccesso e ho una ragazza olandese che ho seguito l'Olanda per un po' di anni, e ho seguito una dieta olandese con cui ho perso 10 chili. Sì. È una dieta che mi portava ad assumere delle piccole pastiglie di aminoacidi. E era una dieta molto ricca di fibre, quindi seguivo piccoli pasti durante il giorno e poi una cena abbondante a base di carne e sì, di pasta, comunque tutto integrale. A distanza di adesso 6 mesi proseguo sempre con questo tipo di alimentazione, quindi mangio frazionato durante il giorno, e ho mantenuto il mio peso forma senza problemi, quindi, e mi trovo molto bene in questo modo. L'ho sempre fatto adesso nel passato e lo sto facendo ancora adesso. E una seconda cosa, visto che ho sentito tante donne parlare di questi problemi di peso, vi dicendo, la mia ragazza olandese si è trasferita in Italia da poco tempo, da un anno a questa parte. Sì. E soffre molto questa cosa che vede, nel senso, vede tutte queste ragazze molto molto magre, lei è molto magra, anche lei è molto minuta, però si sente molto, non lo so, frustrata dal fatto che c'è questa fissa proprio di essere sempre precisi, perfetti, tutti insomma, di seguire un po' probabilmente un modello che non è quello che appartiene, e vede proprio questa grossa differenza dal suo paese. No, devo dire che ormai l'abbiamo capito tutti, no? Che poi questi modelli poi nella realtà non esistono, o sono veramente... professor Mencacci, che dice? Sono modelli assolutamente imposti, sono modelli che non tendenzialmente fanno perdere la stima delle persone che possono avere per se stessi, perché non sono modelli interiori. E dobbiamo riconoscere che forse il desiderio di semplicità della giovane olandese è un desiderio di poter, come dire, stare bene con se stessi senza sentire che dall'esterno ci sono così tante pressioni, perché o si è come l'ideale o non si è nessuno. Stefano D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare la mia testimonianza. Diciamo che da un mese circa ho deciso di mettermi a dieta, perché ovviamente avevo superato un certo limite di peso, solo che faccio molta fatica, soprattutto la sera, in quanto non avendo la possibilità di pranzare come facevo un tempo quando lavoravo vicino a casa, sono costretto a ricorrere a panini o piuttosto a qualcosa di preparato frettolosamente la mattina. Il risultato è che facendo uno spuntino pomeridiano, la sera si arriva a casa e si mangiano le gambe del tavolo, come certo. Si suol dire. E faccio molta fatica, cioè non riesco a capire che cosa devo fare per convincermi o comunque per trovare, non so, una leva psicologica che mi faccia stare un po' tranquillo, e mi rendo conto che questo influisce molto anche sull'umore. Quindi nervosismo. I nutrizionisti, Stefano, consigliano di frazionare i pasti, di fare dei pasti, di mangiare anche a pranzo. Purtroppo la vita così di oggi non permette a tutti noi di seguire le loro indicazioni. È vero anche però, Giovanna, che c'è poi il rischio che uno diventi arrabbiato proprio, perché hai questa fame che non riesci a dominare, ti senti impotente. Assolutamente. Intanto in altri paesi, io ho vissuto in Belgio per un po', in altri paesi è assolutamente previsto che la pausa pranzo sia rispettata e duri un certo tempo. A noi è negata, chi lavora ritiene scontato che la pausa pranzo non esista o sia breve, quindi questo già secondo me è un problema. È assolutamente vero che comunque la sera a casa si voglia trovare il relax e la gratificazione, a volte la gratificazione è il cibo. Vi leggo solo questo messaggio: ho perso 15 kg, tutti mi dicono come sei stata brava, perché prima ero cattiva, no? Questo, per ritornare sì, a quanto Giovanna libro, dicevi tu. Nel prossimo libro. Allora, sino ad ora abbiamo parlato di cibo, ma non possiamo fare a meno di parlare di alcol. C'è la relazione del Parlamento, del Ministero della Salute, direi che non usa mezzi termini, e parla di allarme sballo. Il 34% dei bevitori, soprattutto tra i ragazzi, pratica almeno una volta alla settimana il binge drinking, la moda di bere in modo compulsivo fino ad ubriacarsi. In linea con noi abbiamo il dottor Riccardo Gatti, che è medico direttore scientifico dell'Osservatorio Dipendenza della Lombardia. Buongiorno, dottor Gatti. Buongiorno. Questo allarme non ci è nuovo, da qualche anno viene riproposto il problema, alcol tra i giovani e i giovanissimi, tutti noi avvertiamo la gravità della situazione, ma anche, mi lasci dire, una sorta di immobilismo, impotenza, forse perché continuiamo a osservare il fenomeno con gli stessi occhi? Lei che del settore ci faccia capire se qualcosa si muove sotto questa calma piatta, anche se è una calma che fa urlare all'allarme. Ma io non so se avvertiamo la gravità della situazione, un po' perché tendiamo a vedere i fenomeni di oggi come fossero quelli di ieri, no? I nonni dicono, ma anche noi alla domenica ci prendevamo la sbronza piuttosto che, ma sì, ma tutti bevono, insomma. E quindi si sottovaluta, e anche perché se effettivamente ci fosse una emergenza si potrebbe pensare che prenderebbero delle provvedimenti, delle azioni diverse, invece non si fa assolutamente nulla, come dice lei, tutti gli anni c'è l'allarme ed è sempre lo stesso. In realtà il problema è che invece i fenomeni stanno cambiando, e da una parte sono dovuti alla fortissima pressione del mercato che vuole che le persone consumino alcolici. Basta andare nelle ore di maggiore ascolto delle televisioni, quelle frequentate da giovani, negli eventi, certo, interessanti, eccetera. C'è una fortissima pressione al bere alcolici di tutti i generi. E dall'altra parte c'è un nuovo media che è la convergenza multimediale, la crossmedialità, che in qualche modo ripropone transculturalmente atteggiamenti diversi rispetto alle sostanze d'abuso. E per di più sta cambiando l'atteggiamento dei più giovani, diciamo dei nativi digitali, nei confronti delle droghe in genere, alcol compreso. Quello che cambia è che si tende a fare una vita regolare e poi a sballare in momenti in cui ci si spacca, come si dice, no? Ci si altera veramente in modo profondissimo, in cui lo scopo da soli o in compagnia è quello proprio di alterarsi molto profondamente. E questa cosa la si può fare indifferentemente con alcol, con droghe o con tutte e due. Dottor Gatti, grazie per essere stato con noi. Ringraziamo anche il professor Mencacci che ci ha regalato il suo tempo. Giovanna Luini, vi ricordo il diario di Melassa, leggetevelo. Arrivano dei messaggi, tra cui uno: la mia fidanzata, dopo aver mangiato, se decide di aver mangiato troppo, va in bagno a vomitare. Lo decide lei di farlo, mi devo preoccupare? La risposta è sì. Christian, aiuti la sua ragazza e la inviti a parlare con uno specialista. Per oggi è tutto, grazie, a domani.